America oggi pronta a mettere contro una femmina uno nero tra i due litiganti. Non vorrei che il terziario godesse. Il potere resterà maschio e bianco, bianco mangiare di rassicurazioni che consigliano di morire bene di tumore senza rischi. Chiare spese inutili o, cosa nostra, di una bella morte bianca.